notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La domanda vera che ci dobbiamo fare, in questo ha ragione Saviano, ma onestamente noi lo denunciamo dall'anno scorso: se fosse stato il ministro Boschi un ministro del governo Berlusconi, cioè un ministro che è ministro dei rapporti del Parlamento, il cui padre è vicepresidente di Banca Etruria aiutata dal governo Renzi e cui fratello lavora in Banca Etruria e cui lo stesso ministro Boschi ha delle azioni in Banca Etruria, che cosa avrebbero scritto i giornali di pseudosinistra? Questo è Di Battista, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Di Battista del Movimento 5 Stelle. Oggi sapete che il Movimento dei Pentastellati ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti della ministra Boschi in tutto questo scandalo delle banche fallite, del salvabanche, delle accuse tra Unione Europea e governo italiano e poi Banca Italia, Consob, chi ha fatto il proprio dovere, chi non l'ha fatto, chi ci perde, eccetera, eccetera. Insomma, naturalmente parleremo, come avrete capito questa sera, molto qui a Effetto Notte ancora di questo argomento, visto che continua a tenere banco ed è anche comprensibile. Voi che ne pensate a proposito di questa mozione di sfiducia? Ritenete che effettivamente la ministra Boschi debba dimettersi, debba fare un passo indietro? Boschi ha replicato dicendo votiamola questa mozione di sfiducia alla Camera e vediamo chi ha la maggioranza. Chiaramente c'è, naturalmente, il PD, il governo di maggioranza relativa, ha questa maggioranza relativa. Ma voi che cosa ne pensate? Tutta questa vicenda che in parte ripercorrerò insieme a voi, insieme agli ospiti, dopo. 349-238-6666, come sempre sapete, il numero per i vostri sms, per i vostri messaggi, le vostre opinioni tramite sms, oppure c'è comodamente la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, senza sosta, potete scrivere in ogni momento, in particolare poi quando sono in diretta con voi. E poi ci occuperemo anche di cosa è successo in Francia. Nel primo turno delle elezioni regionali sembrava che dovesse vincere Marine Le Pen, il suo fronte nazionale, il partito di estrema destra, poi invece nel ballottaggio c'è stata questa inconsueta, diciamo, alleanza tra i socialisti e i repubblicani per fermare l'avanzata dell'estrema destra, e così è stato. Ma sarà stata una vera vittoria di repubblicani e socialisti e una vera sconfitta del partito di Marine Le Pen? Lo scopriremo poi, naturalmente solo seguendo Effetto Notte. E poi ci occuperemo anche di questa nuova pressione da parte dell'Unione Europea sull'Italia per quanto riguarda i migranti. Dice l'Unione Europea: dovete fare questi benedetti hotspot, cioè i centri di identificazione, di accoglienza, di prima accoglienza dei migranti, e dovete prendere anche con la forza le impronte digitali, perché il governo italiano sta subendo una infrazione da parte dell'Unione Europea per questo motivo, e quindi l'Unione Europea dice: beh, se non avete preso finora, sappiate che anche con la forza, se qualcuno si rifiuta, le dovete prendere. Poi ci occuperemo di calcio, di molte altre cose, come sempre con Effetto Notte, lo sapete, seguite tutta un'ora ricchissima, ecco per questo mi tocca andare un po' velocemente, quindi passo subito ai titoli. La guerra all'ISIS, Obama avverte i leader jihadisti, siete i nostri prossimi obiettivi, dice l'Italia, i nostri alleati pronti a fare di più. Migranti, l'Unione Europea pressa l'Italia, le impronte vanno prese anche con la forza e bisogna accelerare sulla creazione di hotspot. Draghi e il sistema bancario, è necessario smaltire in fretta i prestiti deteriorati, il Movimento 5 Stelle presenta la mozione di sfiducia alla ministra Boschi. Torna la tensione fra Russia e Turchia, ora screzia anche in mare. La Marina di Mosca costringe una nave di Ankara a cambiare la rotta. Cancellato il vertice russo-turco a San Pietroburgo. Le elezioni regionali in Francia, al secondo turno sconfitta per l'estrema destra di Marine Le Pen, che perde in tutte le regioni. 7 vanno ai repubblicani, 5 ai socialisti. Consulta, 30ª fumata nera. Da domani votazione a oltranza. Pininfarina, la storica azienda di design automobilistico ceduta al gruppo indiano Mahindra, il titolo crolla in borsa. L'annuncio di Marchionne, Ferrari a Piazza Affari dal 4 gennaio e l'Alfa Romeo torna in Formula 1. Calcio con i sorteggi per le italiane nelle coppe, pesante il turno per la Juventus e Roma in Champions. Quindi dagli avvertimenti che il presidente americano Barack Obama ha lanciato all'ISIS dopo la riunione al Pentagono con il Consiglio di sicurezza. Non potete nascondervi, ha detto Obama, sarete i prossimi ad essere colpiti. Il presidente americano ha ricordato ai responsabili dello Stato Islamico, ha ricordato quali sono i responsabili dello Stato Islamico uccisi negli ultimi mesi, ha inoltre sottolineato come la lotta contro la jihad sia diventata più serrata che mai e auspica che ci siano progressi sempre più rapidi. Continua a essere una lotta difficile, dice Barack Obama, ma la strategia va avanti, insieme ai partner della coalizione, stiamo colpendo i leader dello Stato Islamico uno per uno, e in particolare Obama ha citato il nostro paese, dice: l'Italia sta aumentando il suo impegno nella lotta contro l'ISIS. E parliamo anche di migranti. L'Unione Europea, vi dicevo, pressa l'Italia, dice: le impronte ai richiedenti asilo vanno prese anche con la forza e bisogna accelerare sulla creazione di hotspot, e di questo parleremo in modo più approfondito poi nello spazio europeo. Torna intanto la tensione tra Russia e Turchia, ora screzi anche in mare con la marina di Mosca che costringe una nave di Ankara a cambiare rotta, quindi il confine marittimo tra Mosca e la NATO riappare come non accadeva da decenni dopo l'abbattimento del jet russo nel cielo di Siria, vi ricordate, il 24 novembre scorso, ed è stato cancellato il vertice russo-turco a San Pietroburgo. Nel meccanismo retorico innescato dal Cremlino succede anche che sia la Russia stessa a dover gettare acqua sul fuoco di un presunto incidente nel Mar Nero, dove una flottiglia della compagnia petrolifera di Crimea avrebbe avuto la rotta bloccata da una nave turca. Nulla di vero, spiega l'autorevole fonte russa, che smorza quest'ultimo caso dopo che già ieri nell'Egeo la nave da guerra Smetrienni si è detta costretta a sparare alcuni colpi di avvertimento per allontanare un peschereccio turco troppo curioso. Mosca intanto rinnova la richiesta di scuse turche, che chiede anche un processo per i responsabili dell'abbattimento e una compensazione per i danni subiti. Nuovo scambio invece tra Lavrov e Kerry alla vigilia del viaggio dell'americano a Mosca. Entrambi, secondo il Cremlino, hanno ribadito la necessità di trovare un punto d'incontro almeno sull'elenco che deve chiarire chi sono i combattenti, chi invece i terroristi nel complicato teatro siriano. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Già, sempre questa la confusione. E poi in Francia il secondo turno delle elezioni regionali che c'è stato ieri, sono arrivati gli esiti, sconfitta quindi per l'estrema destra ai ballottaggi delle regionali francesi, nessuna regione al Front National, il partito di Marine Le Pen e della nipote Marion, che al primo turno avevano conquistato il 27% delle preferenze, vittoria invece in 7 regioni per i repubblicani di Sarkozy, 5 quelle invece conquistate dai socialisti. Il partito della Le Pen tuttavia raggiunge il suo record di preferenze, che questo torneremo a parlare poi collegandoci direttamente con la Francia. E sempre per quanto riguarda la Francia, questa notizia è interessante: i familiari di alcuni ragazzi caduti nelle maglie dell'ISIS hanno creato un'associazione per aiutare altre famiglie che si trovano nella stessa situazione, quella di genitori disarmati rispetto a un figlio che vuole partire in Siria o che lo ha già fatto. La struttura associativa è stata creata con l'appoggio del Ministero dell'Interno francese. A lanciarla sono state 6 donne che hanno deciso di unire le forze per dare più forza, più sostegno alla loro lotta. Siamo su Draghi e il suo appello al sistema bancario. Il presidente della Banca Centrale Europea da Bologna ha detto che è necessario smaltire in fretta i prestiti deteriorati, le sofferenze insomma che frenano la crescita. Il 40° compleanno della società di consulenza Prometeia è l'occasione per Mario Draghi per una fotografia della condizione economica dell'Italia. Protagoniste del suo discorso, le piccole e medie imprese, viste come attori fondamentali e traino per l'Italia e le banche. Queste ultime nel mirino delle cronache recenti. Draghi ha ridimensionato l'accesso al credito definendolo uno dei fattori di freno allo sviluppo fra i meno importanti e ha rivendicato la scelta in BCE, in realtà contestata, di promuovere una politica economica basata sui titoli sovrani. Anche il programma di acquisto di titoli privati e pubblici ha alimentato la concorrenza sui mercati del credito, spingendo verso il basso i rendimenti sui titoli sovrani, riducendo così l'attrattività di questi ultimi rispetto ai prestiti, settore verso il quale si rivolge oggi un volume crescente dell'attività bancaria. E queste misure, contrariamente a quanto si afferma da parte di qualcuno, non hanno danneggiato le banche. Federico Mascagni, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna. E siamo a salvabanche e le conseguenze che monopolizzano il dibattito politico in queste ore. Prima sentiamo la cronaca e poi le reazioni politiche. Sarebbero 1.010 i piccoli risparmiatori più in difficoltà dopo il decreto salvabanche, clienti dei 4 istituti coinvolti nella vicenda, con meno di 100.000 euro di risparmi e con una concentrazione di obbligazioni subordinate superiore alla metà del loro patrimonio. Bond con un valore complessivo di circa 27 milioni. Sarà rivolto soprattutto a loro il fondo di solidarietà da 100 milioni previsto dall'emendamento del governo alla legge di stabilità. In tutto però sono 12.500 500 i clienti possessori di obbligazioni subordinate, il cui controvalore complessivo è di oltre 430 milioni, cioè oltre 4 volte quello del fondo. Per molti di loro sarà dunque difficile ottenere un rimborso. I comitati a cui hanno dato vita i risparmiatori penalizzati dal decreto salvabanche chiedono quindi più risorse. Si moltiplicano nel frattempo anche i fascicoli aperti da diverse procure dopo gli esposti presentati dalle associazioni dei consumatori. Ad Arezzo sono 3 i filoni di inchiesta su Banca Etruria. Al momento fra gli indagati non figura il padre del ministro Boschi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Annunciata nei giorni scorsi, la mozione di sfiducia del ministro Maria Elena Boschi è stata presentata dai 5 Stelle alla Camera e il movimento accusa Boschi di conflitto di interessi per aver salvato Banca Etruria, dove il padre era vicepresidente. Così Alessandro Di Battista. Il Movimento 5 Stelle reputa che il ministro Boschi non sia al di sopra di ogni sospetto, reputa che la banca riconducibile alla sua famiglia sia stata favorita da alcuni provvedimenti del governo Renzi, per cui noi la sfiduciamo e lei sarà costretta a venire in Parlamento a fornire spiegazioni alla nazione intera. La mozione non è stata ancora calendarizzata, ma le opposizioni sembrano convergere sul testo 5 Stelle. Matteo Salvini della Lega aderisce, i falchi di Forza Italia come Renato Brunetta pure e anche Stefano Fassina di Sinistra Italiana. Il ministro intanto stenta sicurezza sui numeri in transatlantico, mentre il PD fa quadrato. Il capogruppo alla Camera Ettore Rosato. Noi siamo per una calendarizzazione immediata della mozione di sfiducia, andiamo in aula a discuterne. Vediamo chi ha responsabilità e chi strumentalizza. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi, mi dicevo, torneremo a parlarne anche con un deputato del Movimento 5 Stelle. Ancora invece nulla di fatto a Montecitorio alla 30ª votazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione dei 3 giudici della Consulta e a questo punto quindi si procederà con sedute a oltranza a partire da domani alle 19. Poi c'è una proposta per un nuovo statuto dei lavoratori da parte della CGIL. Questa proposta di un nuovo statuto dice una carta dei diritti universali del lavoro che ha l'obiettivo di estendere i diritti a tutti. La proposta è un disegno di legge di iniziativa popolare e dovrà essere approvata dalle assemblee degli iscritti e potrà essere anche sostenuta con specifici quesiti referendari. E poi dall'estero, il maestro d'asilo francese che sabato scorso aveva affermato di essere stato aggredito da un membro dello Stato islamico ha ammesso, pensate, davanti ai magistrati di essersi inventato tutta questa storia. Lo ha reso noto la procura di Parigi. E poi per parlare sempre di terrorismo, orrore in Libia, dove secondo l'agenzia Lana una donna marocchina è stata decapitata dopo essere stata accusata di stregoneria dalla corte islamica, mentre un palestinese è stato ucciso a colpi di pistola per spionaggio. E non esiste purtroppo limite alla barbarie dei jihadisti dello Stato islamico. A Mosul, capitale del sedicente califfato nel nord dell'Iraq, il responsabile della Sharia islamica del gruppo terroristico avrebbe emesso una fatwa, cioè un editto islamico, che ordina l'uccisione dei neonati down o sofferenti di malformazioni genetiche oppure fisicamente disabili, quanto denuncia Mosul Eye, un sito di informazione di attivisti locali che parla della soppressione già avvenuta di ben 38 neonati nella sola città di Mosul. Invece una buona notizia, avevamo parlato venerdì di questa storica elezione municipale in Arabia Saudita, le donne non possono neanche guidare tra le mille cose che non possono fare, per la prima volta si sono potute presentare come candidate a queste elezioni municipali su migliaia e migliaia di uomini, neanche hanno potuto fare i comizi, però pare che 20 siano state elette. Torniamo in Italia con i medici che scioperano mercoledì 16 dicembre, rinviate 2 milioni di visite, stop anche a 40.000 operazioni chirurgiche, garantiti gli interventi di emergenza. Per la cronaca, il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza ha arrestato il manager Davide Biancifiori, una persona ritenuta a lui vicina, e poi un militare della Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sugli appalti TV. Il GIP ipotizza le accuse di associazione a delinquere finalizzata a una pluralità di delitti tributari. Auto, dopo mesi di negoziati, ufficiale Pininfarina, la storica società di design automobilistico, passerà agli indiani di Mahindra & Mahindra. La transizione supera i 25 milioni, l'azienda resta in Italia, restano le maestranze, resta il management, resta il DNA Pininfarina, così ha detto il presidente Paolo Pininfarina. E poi invece per quanto riguarda Ferrari e Alfa Romeo, Marchionne ha oggi detto stiamo pensando a un ritorno del marchio Alfa Romeo come nostro competitore alle corse alla Formula 1, lo ha detto appunto l'amministratore di Fiat Chrysler e il presidente della Ferrari Sergio Marchionne a margine oggi del tradizionale scambio di auguri con i giornalisti. Ferrari a Piazza Affari sarà dal 4 gennaio l'altro annuncio. E per chiudere invece il calcio con il posticipo di Serie A Lazio-Sampdoria, mi pare, Giovanni Capuano, che siamo sempre sullo 0-0? Sì, siamo sempre sullo 0-0 quando sono passati 31 minuti del primo tempo di una partita che sta andando avanti su ritmi abbastanza bassi, molto equilibrata, c'è grande tensione, del resto sia Lazio che Sampdoria hanno assoluto bisogno di fare punti, nel caso della Lazio assoluto bisogno di vincere per uscire dalla crisi. Pioli ha la panchina a rischio, inutile nasconderlo, Montella ha fatto fin qui 0 punti nelle 3 domeniche in cui è stato ad allenare la Samp da quando ha rilevato Walter Zenga. Dunque partita con grande tensione, ci sono state un paio di occasioni, una per parte, quella della Lazio, un colpo di testa di Close da buona posizione che però non ha trovato lo specchio della porta, più interessante quella della Samp al 28esimo, quindi 4 minuti fa. Ci sono state una serie di rimpalli all'interno dell'area di rigore della Lazio, l'ultimo di questi rimpalli è andato a sbattere su Barreto, la palla è finita davvero a 1 centimetro dal palo alla destra di Marchetti, con Marchetti che era battuto, e dunque Sampdoria che è andata vicinissima al vantaggio. C'è Cassano in campo dal primo minuto, è la seconda volta che succede con Montella in panchina, Cassano che sta però giocando a un ritmo abbastanza basso fin qui. Grazie Giovanni Capuano, vedremo poi se questo ritmo si accelera e comunque come procederà poi la partita. Intanto, prima di prenderci questa pausa, ma per aggiornare chi invece si muove, chi sta viaggiando, vi leggo alcuni dei vostri tanti messaggi che stanno arrivando sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. A proposito dell'opportunità o meno che la ministra Boschi si dimetta, scrive Andrea da Chiusi: nel caso di Boschi non mi sembra che si possa parlare di una ministra ma di una mandataria, dice Aldo. Boschi non solo dimissioni ma indagate. Achille, non mi piacevano le veline di Berlusconi e ancora meno quelle di Renzi. La Boschi deve dimettersi perché è incompetente. Chi è incompetente fa danno o si caccia nei guai e non ce lo possiamo permettere. Giovanni da Genova: in Italia nessuno si è mai dimesso per molto peggio, figuriamoci ora. Katia dice: assolutamente insensato sfiduciare ministra Boschi. E poi caso Boschi, arroganza del potere, nessun cambiamento di stile, comportamenti col passato, i 5 Stelle hanno ragione, dice un ascoltatore. Non si firma, un altro dice Di Battista a chi? Punto interrogativo. E poi sulla pagina anche di Effetto Notte Antonio dice: se ogni componente del governo dovesse dimettersi perché è in conflitto di interessi non avremmo un governo, l'Italia è basata sul conflitto di interessi, non ci vuole una legge costituzionale né una modifica alla Costituzione per appunto fare una legge contro il conflitto di interessi, ma a quanto pare c'è sempre qualcosa di più urgente. Ora è urgente la viabilità, ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ecco qui, come vi dicevo, dopo pochi istanti adesso sto cercando, ecco si era bloccato tutto. Angela dice, ricorda appunto i 5 Stelle che hanno chiesto la sfiducia per la ministra, cioè, se non è conflitto di interessi questo ditemi cos'è. Elenca che il fratello manager lavorava nella banca, la cognata dipendente banchettura, l'ex presidente dell'istituto eccetera eccetera. E poi Paolo dice: solo lei ha presente la ministra dello sport del governo Letta dimessasi su richiesta del Pinocchio alpinista, dice insomma. Ma l'altro non è che una reincarnazione della balena bianca, quindi della Democrazia Cristiana, dice insomma, a volte ritornano, secondo Paolo. Serena: forse si dovrebbe dimettersi non per fare sempre gli stessi discorsi triti e ritriti, forse retorici, ma se questo Stato fosse stato serio e credibile si sarebbero dovuti dimettere già da tempo anche in altre legislature molti ministri senza mai, senza sé. Più generalista, diciamo, Serena. Adesso vi ricordo velocemente le notizie più importanti, se non avete acceso puntualmente alle 21 su Effetto Notte, e poi dopo cominciamo ad andare nel cuore degli argomenti. Il presidente americano Obama, il leader dell'ISIS, dice: sarete i prossimi a essere colpiti, lo ha detto durante un vertice al Pentagono, dove ha anche affermato che l'Italia e altri alleati nostri dell'America pronti a fare di più. Renzi contrattacca sulle banche, la ministra Boschi sfida il Movimento 5 Stelle che presenta una mozione di sfiducia, il presidente della Banca Centrale Draghi dice che bisogna smaltire presto le sofferenze del sistema bancario. Nella manovra il leasing sulla prima casa, però sapete ancora ci sono varie modifiche, quindi capiremo più in là quando sarà definitiva la manovra. Poi l'Unione Europea all'Italia, a proposito dei migranti, dice: bisogna raccogliere le impronte anche con la forza e bisogna aprire subito due hotspot. Torna la tensione fra Russia e Turchia, ora anche in mare, con la Marina di Mosca che costringe una nave di Ankara a cambiare la rotta. Pininfarina, l'azienda del design automobilistico, va agli indiani e migra l'Italian Style delle auto ceduta a Mahindra per 25 milioni di euro. E Marchionne annuncia il possibile ritorno dell'Alfa in Formula 1. Ma si può pensare che sia tutto normale in questa storia e che non ci sia niente di strano nel vedere un ministro così importante in questo governo legato alla vicenda di questa banca, dove in passato tra l'altro ha lavorato anche il fratello? Ora, delle due cose l'una: il governo non doveva occuparsi della Banca Etruria, non doveva occuparsi direttamente, perché c'era un ministro al suo interno che poteva influenzare una cosa del genere, una scelta del genere, oppure doveva intervenire, ma doveva chiedere al ministro di dimettersi. Questo Roberto Saviano, lo scrittore, no? Nei giorni scorsi, a proposito del fallimento di una delle quattro banche, Banca dell'Etruria, che è un po' più nell'occhio del ciclone per il fatto che il padre della ministra Boschi è stato per 8 mesi vicepresidente di questa banca. Dopodiché sentiamo che cosa ha detto la ministra Boschi ieri alla Leopolda, alla kermesse renziana, 2 giorni fa, a Firenze. Oh, finalmente ci sono e mi scuso per il ritardo, anche perché ho letto in queste ore un sacco di ricostruzioni molto fantasiose, alcune veramente divertenti, sul perché non fossi qui con voi ieri sera. Beh, in realtà ero semplicemente a fare il mio lavoro. Purtroppo tutti i problemi che ci sono stati in questi giorni, in queste ore, hanno ottenuto un po' l'effetto di non farci più parlare della legge di stabilità. E io penso invece che dobbiamo essere orgogliosi del lavoro che stiamo facendo, perché è una legge di stabilità che riduce le tasse tantissimo, a cominciare dalle tasse sulla casa. Insomma, la ministra Boschi, diciamo, si è spostata sulla legge di stabilità, quando molti vociferavano sui perché non era arrivata la Leopolda, poi è arrivata, però ha glissato sull'argomento, anche se nei giorni scorsi ha detto: mio padre è una persona per bene, anzi quasi mi sento in colpa, perché essendo io personalità in vista, in questo modo poi ci si è rifatti su di lui. Sentiamo invece Renzi che cosa ha detto a proposito di possibili favoritismi di cui si accusa il suo governo. Non abbiamo fatto nessun favoritismo, mai. E chi lo dice sta insultando persone per bene, che non hanno merito di essere oggi qui messe alla berlina, perché i fatti dicono con grande franchezza che potete dirci tutto, ma non che c'è favoritismo in questo governo. Così Renzi, ed aggiunge anche: rifarei quel decreto, lo rifirmerei, perché se non avessi fatto quel decreto ci sarebbero un milione di conti correnti chiusi, ci sarebbero 4 istituti andati definitivamente a carte 48, ci sarebbero 7.000 persone licenziate. Senza quel decreto non avremmo salvato i risparmiatori italiani, e quindi non ci prendiamo in giro, la verità è più forte delle chiacchiere. E poi Padoan, sul finire della scorsa settimana, ha assicurato che ci sarà un emendamento nella legge di stabilità per aiutare caso per caso, risarcire insomma i risparmiatori. Perché la vicenda delle quattro banche fallite, Cariferrara, Carichieti, Banca Marche e Banca Etruria, salvate dal provvedimento, diciamo, cosiddetto salvabanche del governo Renzi, ha annullato di fatto comunque i crediti degli obbligazionisti. Le autorità di controllo dicono che hanno fatto fino in fondo il loro dovere, ci sono però dei risparmiatori che hanno perso i loro soldi. Di oltre 10.000 sono fra questi, e nei giorni scorsi si è innescata anche la polemica tra l'Unione Europea e il governo Renzi. Secondo Bruxelles queste banche hanno venduto prodotti inadatti a persone ignare, e chi aveva il compito di controllare non l'ha fatto. 3 inchieste sono state aperte sulla banca di Etruria, anche sul conflitto di interessi, degli esposti dei consumatori sono partiti, e poi c'è anche una commissione d'inchiesta che dovrebbe a giorni essere costituita in Senato. Comincerei a parlarne con Danilo Toninelli. Onorevole Toninelli, deputato del Movimento 5 Stelle. Buonasera Toninelli. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Quindi raccontavo anche prima un poco il riassunto della giornata alle ascoltatrici e agli ascoltatori che voi del Movimento 5 Stelle, come avevate annunciato, avete presentato questa mozione di sfiducia nei confronti della ministra Boschi. Assolutamente sì, innanzitutto mi pare giusto replicare a quanto appena ascoltato dalla ministra Boschi, che si è detta molto impegnata nella legge di stabilità. Io ho partecipato ai lavori di questi giorni in commissione e non si è mai vista, quindi è una scusante che non sta in piedi. E detto questo, noi abbiamo presentato oggi una mozione di sfiducia non come un atto polemico di protesta, ma come un atto concreto. Cioè, noi abbiamo sommato tutta una serie di indizi e siamo arrivati ad una prova, e non siamo tra l'altro gli unici a dirlo. Il tutto inizia il 20 di gennaio, quando viene emanato un decreto che trasforma le banche popolari in SPA, cioè un decreto che le salva queste banche popolari. Tra queste banche popolari c'è anche la Banca Etruria, che puta caso, quel giorno in cui venne emanato il decreto, è stata la banca che ha guadagnato di più in borsa, addirittura il 62%. Oltre a questo, il primo indizio però è che nei mesi precedenti questo decreto, appunto, che ha trasformato la popolare in SPA queste banche, c'è stata una strana speculazione su queste banche qua, sulla Etruria addirittura, che aveva una crisi finanziaria fino a 3 miliardi, chissà perché c'è stato un periodo in cui, appunto nei mesi precedenti, si vendevano molte azioni. Ciò dà adito a molti sospetti, non nostri, ma la Procura di Roma sta indagando in questo. Se a ciò sommiamo che nel consiglio di amministrazione della Banca Etruria c'era il padre della Boschi, che è stato vicepresidente, ci pare assolutamente ovvio pensare che ci sia un abnorme conflitto di interessi di quella ministra, tra l'altro, che non ha mai dato le prove effettive di non aver partecipato a quel consiglio di ministri del 20 gennaio. Non contenti, cosa hanno fatto in questi giorni? Hanno fatto il decreto salva banche, in cui c'è non più la Banca Popolare d'Etruria, ma la Banca d'Etruria SPA, decreto che ha praticamente ammazzato decine di migliaia di piccoli risparmiatori. E mi permetta di dire che è offensivo ed oltraggioso dire che è colpa dei risparmiatori, o dire che erano degli speculatori, perché così li hanno definiti. Questi erano pensionati, lavoratori dipendenti, gente normalissima, cittadini italiani che si erano fidati di questa banca e avevano dato alla banca i propri risparmi. Sono stati fregati perché la politica di Renzi, che fonda il tutto sulle banche, non sulla democrazia dei cittadini, ha deciso di fare che cosa? Non di punire chi ha sbagliato, cioè in questo caso le banche, ma di punire i risparmiatori, cioè i clienti delle banche. Toninelli, le faccio proprio l'ultimissima domanda sinteticamente. È soddisfatto di questa commissione d'inchiesta parlamentare che è stata annunciata dal responsabile economico del governo Taddei? Assolutamente no, la commissione d'inchiesta è sicuramente un atto dovuto, necessario, ma oramai è quasi 3 anni che siamo in Parlamento e sappiamo che le commissioni d'inchiesta servono per allungare il brodo e per fare raffreddare, diciamo, la situazione dal punto di vista mediatico. Il ministro Boschi ha uno scandaloso conflitto di interessi, sa anche perché? Perché loro hanno, come ministri, dovrebbero depositare la dichiarazione patrimoniale non solo di loro stessi, ma anche dei familiari. Se lei guarda la dichiarazione dei redditi della ministra Boschi, mancano, cioè non hanno dato il consenso ai parenti, cioè loro hanno tenuto nascosto il fatto di partecipare ad una banca. Se poi addirittura ciò aggiungiamo che il direttore di questa Banca Etruria oggi è socio della società di famiglia del presidente del consiglio Renzi, capisce come il conflitto di interesse è spaventoso. Mi lascia passare una battuta, che se fosse capitato durante il governo Berlusconi sarebbe successo un putiferio. Mi ha sentito oggi invece sembra. Sì, ma mi sembra una cosa ovvia. Oggi invece sembra che tutto passi normalmente, semplicemente perché questa cosa scandalosa l'ha fatta a centrosinistra. Chiarissimo, Toninelli, la ringrazio. Grazie a lei, arrivederci. Grazie, buona continuazione. E adesso saluto il nostro Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Fabrizio, ne abbiamo parlato lungamente venerdì, no? Ciao. Allora, ti volevo chiedere, secondo te c'è effettivamente questo conflitto di interessi? La ministra dovrebbe dimettersi? E se sì, è il primo grosso vero guaio di questo governo Renzi? No, il conflitto di interessi non c'è secondo la legge italiana, per cui questo da un punto di vista di legge è sicuro. Da un punto di vista morale, di opportunità politica, ogni forza politica fa le sue giuste valutazioni e sono tutte legittime. Io continuo a credere che le colpe, come dire, dei padri e quello che fanno i padri non deve ricadere sui figli. Per cui terrei le due cose distinte. Se poi vogliamo parlare di responsabilità politiche del governo, dei ritardi del governo, ma allora è un discorso da porre su tutt'altro piano. E secondo me in primo piano qui non ci devono essere le speculazioni politiche di questo o quel partito, ma la difesa e la tutela dei risparmiatori italiani. E a questo proposito, quindi adesso è vero che all'inizio si era parlato soprattutto di speculazioni da parte dei risparmiatori che ritenevano che lì ci fossero interessi maggiori, senza calcolare che poi era un grosso profilo di rischio. Invece sembra, come si diceva anche venerdì con te Fabrizio, che comunque probabilmente chiarezza e trasparenza non sono sempre state integerrime da parte di chi doveva informare. Bisogna distinguere, insomma, perché indubbiamente il prodotto che questi risparmiatori andavano a comprare era un prodotto che dava dei elevati rendimenti, per cui c'è, come dire, una componente speculativa quando tu vai a comprare quel determinato prodotto, però è evidente che questa attitudine speculativa è difficile collegarla a una tipologia di risparmiatore che può essere appunto il pensionato che dispone dei suoi 50.000 euro ed investe tutti in queste obbligazioni. Qui c'è una responsabilità del funzionario di banca, della banca, che induce un investimento che è chiaramente sbagliato per quella tipologia di risparmiatore. Siccome per legge il testo unico della finanza prevede che l'operatore bancario deve tutelare l'interesse del risparmiatore, lo deve fare per legge, e lui sa che quel tipo di investimento non è nell'interesse del risparmiatore, perché è un rischio eccessivo, perché quel risparmiatore deve differenziare i suoi investimenti, deve andare su rendimenti minori o perlomeno deve investire gran parte dei suoi risparmi su titoli più sicuri che offrono un rendimento minore, poi magari una piccola quota la può mettere anche in titoli più speculativi come sono questi, però con prudenza, certo, con prudenza non certo tutti i suoi risparmi. Fabrizio, ultimissima domanda, la trovi opportuna questa commissione d'inchiesta parlamentare, che sarà monocamerale per essere più veloce, quella al Senato? Bisogna capire come funziona e qual è, che poteri avrà questa commissione. Io ho l'impressione che si rischi appunto di fare una gran confusione. In Italia abbiamo la Consob, abbiamo la Banca d'Italia, insomma abbiamo già chi dovrebbe vigilare. Fare una commissione parlamentare con poteri magari confusi, fatte da parlamentari che, come si sta vedendo in queste ore, molto spesso hanno come primario interesse, più che la difesa del risparmiatore, quello di portare vantaggi politici alla propria parte, secondo me rischia di aumentare la confusione e non fare il bene degli risparmiatori italiani. Grazie Fabrizio Forchea, venerdì allora. Ciao, non ci sentiamo prima. Ciao Fabrizio. Allora, prima di lasciarci, come consuetudine e come tradizione, vogliamo anche andare a guardare un altro dei vostri tanti messaggi tra la pagina Facebook e il 349-238-6666. Chiara dice, sì, si dovrebbe dimettere perché, e lo dico da sinistra, giustamente per anni ci hanno fatto una testa così col conflitto di interessi di Berlusconi, un minimo di coerenza e di decenza lo imporrebbero. Adesso ci impone il tempo di fare questa pausa, ma ci ritroviamo tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco parliamo anche di Francia e di molte altre cose. Intanto Stefano, a proposito dell'opportunità o meno delle dimissioni della ministra Boschi, dice: in altri governi bastava il sospetto, adesso non è più di moda. Mentre Piero scrive: è il solito giustizialismo del Movimento 5 Stelle. Giulio dice: sì, secondo me è il Movimento 5 Stelle che si dovrebbe dimettere. Rosanna invece scrive: la ministra certo che deve dimettersi. E poi molti altri messaggi a cui darò spazio dopo, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio, basta che cercate Effetto Notte trattino Roberta Giordano, oppure i messaggi li potete mandare al 349-238-6666. Ma torniamo sui titoli in primo piano. La guerra all'ISIS, Obama avverte i leader jihadisti, siete i nostri prossimi obiettivi, dice l'Italia, è uno dei nostri alleati pronti a fare di più. Migranti, l'Unione Europea pressa l'Italia, le impronte vanno prese anche con la forza e bisogna accelerare sulla creazione di hotspot. Draghi al sistema bancario, è necessario smaltire in fretta i prestiti deteriorati, il Movimento 5 Stelle, come abbiamo sentito, presente alla mozione di sfiducia alla ministra Boschi. Torna la tensione fra Russia e Turchia, ora screzia anche in mare con la Marina di Mosca che costringe una nave di Ankara a cambiare la rotta. Le elezioni regionali in Francia, di cui parleremo tra pochissimo, la consulta. Trentesima fumata nera, da domani votazione oltranza. Pininfarina, la storica azienda di design automobilistico ceduta al gruppo indiano Mahindra, il titolo crolla in borsa. E poi l'annuncio di Marchionne con Ferrari a Piazza Affari dal 4 gennaio. Intanto l'Alfa Romeo tornerà in Formula 1. Per il calcio ci aggiorneremo poi per il posticipo di Serie A e poi parleremo anche dei sorteggi per le italiane nella Champions League. Adesso invece spazio alla Francia. Col secondo turno delle elezioni regionali c'è stata la sconfitta a questo punto per l'estrema destra nei ballottaggi. Perde insomma tutte le regioni, nessuna regione infatti è andata al Front National, il partito di Marine Le Pen e della nipote Marion, che al primo turno aveva conquistato il Front National il 27% delle preferenze, quindi c'erano buone possibilità che facesse degli ottimi risultati. Invece vittoria in 7 regioni per i repubblicani di Sarkozy, 5 quelle conquistate dai socialisti, vittoria degli autonomisti in Corsica. Ne parliamo con Marco Musseret, corrispondente del Sole 24 Ore dalla Francia. Ciao Marco. Buonasera. Quindi ai ballottaggi intanto è importante questo dato, che ha votato quasi il 60% degli aventi diritto, no? Mentre il primo turno il 43%, come fosse stata una chiamata alle armi, tra virgolette, no? E poi bisogna comunque dire che è una vera sconfitta per il Front Nazionale, una vera vittoria per repubblicani e socialisti, che hanno fatto, diciamo, questa un po' inedita alleanza pur di fermare il Fronte Nazionale. Ma direi che è la tipica situazione in cui non ha vinto, non ha perso nessuno, nel senso che i socialisti conquistano 5 regioni quando alla vigilia la prospettiva era quella di un disastro, quindi tutto sommato limitano i danni, ma grazie soprattutto alla forza dell'estrema destra che toglie voti al centrodestra di Sarkozy. Quest'ultimo a sua volta riesce a conquistare 7 regioni quando in realtà era previsto che ne vincesse di più, e lo fa grazie in particolare alla desistenza del Partito Socialista in 2 regioni importanti dove il Fronte Nazionale avrebbe in realtà potuto vincere. E quest'ultimo in realtà è vero che non riesce a conquistare nessuna regione, però è anche vero che aumenta il numero dei consensi, passando da circa 6 milioni del primo turno a quasi 7 milioni del secondo turno. Triplica il numero dei suoi consigli regionali da 120 circa a 360 esce comunque da questo turno elettorale come consolidandosi comunque come primo partito di Francia, sconfitto sostanzialmente da questa, come dire, innaturale alleanza tra destra e sinistra finalizzata esclusivamente a sbarrare la strada all'estrema destra. Quindi direi che le tre parti, le tre grandi forze, ormai tre grandi forze in campo di un sistema che non è più bipolare, hanno delle ragioni per essere soddisfatte del risultato e delle ragioni per essere preoccupate. Quindi comunque in ogni caso gli attentati di Parigi non hanno condizionato più di tanto l'orientamento. No, gli attentati hanno condizionato abbastanza, però non tanto da arrivare alla vittoria per il momento. Secondo gli esperti di flussi elettorali, gli attentati hanno avuto un impatto positivo per il Front Nazionale tra il 3 e il 5%, quindi in realtà l'impatto c'è stato. Il problema del Front Nazionale è come già in passato, anche quando aveva ottenuto risultati meno eclatanti, è quello di non avere serbatoi di voto per il secondo turno, cioè un grande partito di raccolta del malessere sociale al primo turno, però poi sostanzialmente si ferma lì, anche se questa volta ha comunque fatto un passo avanti. Teniamo presente che se destra e sinistra non si fossero appunto alleate in questa coalizione, questo cosiddetto patto repubblicano anti-Front National, l'estrema destra avrebbe comunque vinto tranquillamente in almeno 2 regioni e forse 3. Per chiudere, prossime elezioni, Marco Musseret, in Francia? Beh, il prossimo appuntamento elettorale è l'unico che conta davvero in Francia, cioè quello del 2017 con le presidenziali. I sondaggi danno già la Le Pen in testa al primo turno, la battaglia sarà ovviamente tra Sarkozy e Hollande. Beh, prima all'interno dei rispettivi partiti, perché non è ancora sicuro che Sarkozy, cioè non è ancora sicuro al 100%, anche se quasi certo che Sarkozy sarà il candidato della destra, e nel Partito Socialista Hollande, che era molto discusso, in realtà tutto sommato se la cava, quindi è probabile che sia lui a ripresentarsi. La battaglia al primo turno sarà quella tra Hollande e Sarkozy per capire chi dei due andrà, se la dovrà vedere con la Le Pen al secondo turno. Probabilmente vincendo, nessuno oggi pensa che la Le Pen sia in grado nel 2017 di diventare Presidente della Repubblica, perché alla fine appunto la gente, turandosi il naso, andrà a votare pur di evitare la Le Pen all'Eliseo. Però insomma, diciamo che sarà uno scontro interessante, difficile. È difficile. Grazie Marco Musseret dalla Francia. Ciao. Grazie Marco, intanto. Ciao. Viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, vedo anche i vostri messaggi sia al 349-238-6666, numero sempre per mandare gli sms, oppure i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio c'è Giovanni che dice: cara Roberta, le quattro banche fallite sono solo la punta emersa dell'iceberg, lo conferma l'atteggiamento del governo, dell'ABI, della Banca d'Italia, della Consob, della Banca Centrale Europea. Poi un altro ascoltatore che si firma S, famiglia Boschi, Ridens e Affari Bancari, ottimo modello storico antropologico del cattolicume Italia. Questi alcuni dei vostri commenti. Tra poco invece parleremo delle pressioni nuove, si fa per dire, insomma, dell'Europa sull'Italia per quanto riguarda i migranti, ma intanto vi ricordo anche quali sono le notizie principali. Sapete, ogni tanto qualcuno se le dimentica o accende la radio un po' tardi rispetto all'inizio della trasmissione alle 21. Obama ai leader dell'ISIS dice: sarete i prossimi a essere colpiti, l'ha detto in un vertice al Pentagono oggi, e ha detto: l'Italia e i nostri alleati sono pronti a fare di più. Renzi intanto sulla questione salvabanche contrattacca, la ministra Boschi sfida il Movimento 5 Stelle che ha presentato oggi una mozione di sfiducia, abbiamo anche sentito il deputato Toninelli, e poi Draghi della Banca Centrale Europea, il presidente, dice: bisogna smaltire presto le sofferenze del sistema bancario che frenano la crescita. Nella manovra ci sarà anche la manovra la legge di stabilità e leasing sulla prima casa, però di questi rimandiamo a quando ci sarà un testo più o meno definitivo. L'Unione Europea all'Italia, bisogna raccogliere le impronte dei migranti anche con la forza, ne parleremo tra pochi istanti. Torna la tensione tra Russia e Turchia anche in mare, c'è la Marina di Mosca che ha costretto una nave turca a cambiare la rotta, e poi il marchio del design automobilistico Pininfarina che va agli indiani. Europa 24 notte. Sergio Nava, che saluto, ciao Sergio. Ciao. Parliamo quindi di queste pressioni dell'Unione Europea. Allora, intanto c'è stato giovedì scorso l'avvio della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, perché l'Unione Europea ci ha rimproverati di non avere il sufficiente controllo sui migranti, di non prendere le impronte digitali. L'Italia ha risposto, ma molti si rifiutano. Adesso l'Unione Europea dice: bene, allora bisogna prenderla anche con la forza le impronte digitali, e poi chiede all'Italia di accelerare sulla creazione di hotspot, questi centri di prima accoglienza e di identificazione, no? Sì, se... alla fine non c'è nulla di nuovo, fondamentalmente sono tutte vecchie questioni che su cui l'Italia è deficitaria, lo sappiamo. L'hai citata tu, cioè la mancata presa di impronte o identificazione dei migranti, ma sono dati del Viminale che ha detto quest'anno 40.000 su 140.000 di fatto non si sono fatti identificare, perché non c'è una cornice legislativa, ed è quella che chiede l'Europa soprattutto per i prossimi hotspot, che consenta alle forze di polizia o comunque alle forze dell'ordine di imporre questa cosa a chi arriva. Quando sono stato a Catania a fine settembre, questo mi spiegava anche lo stesso prefetto di Catania, cioè il problema spesso è che non c'è un quadro normativo che permette alle forze dell'ordine di dire: non vuoi farti identificare, ti identifico comunque perché questo mi chiede l'Europa, perché non c'è un quadro. Allora l'Europa finalmente si sveglia, si rende conto che noi non abbiamo questo quadro e ci chiede di implementarlo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa sono gli hotspot, perché anche qui un altro fallimento al momento dell'Europa. Ne erano stati promessi 11 in totale entro novembre. Tusk, il presidente del Consiglio Europeo Tusk, tra squilli e fanfare, questo aveva detto nel Consiglio di ottobre. E poi non ne sono stati aperti due, uno in Italia a Lampedusa e uno in Grecia. Allora l'Europa ci dice: beh, aprite almeno altri due, a Pozzallo e Porto Empedocle, perché l'Italia ne aveva promessi tra i 5 e i 6. Ma l'Italia non lo sta facendo perché? Perché non riceve le risorse europee? Il problema del cane che si morde la coda, perché la verità è che anche l'Italia ha ragione in questo braccio di ferro, nel senso che l'Europa, che i paesi, più che l'Europa i paesi europei, perché alla fine questo va riconosciuto alla Commissione Juncker, ha cercato di spingere l'agenda di politiche comuni sull'immigrazione molto in là, molto più avanti di quanto non avesse fatto Barroso, che poi come Presidente della Commissione Europea è stato abbastanza fallimentare in generale. Però il problema è che i paesi europei oppongono ogni tipo di resistenza, nonostante la crisi migratoria c'è stata quest'estate, nonostante tutto. E allora l'Italia dice: io apro gli hotspot e collaboro a una politica comune sull'immigrazione se gli altri fanno la loro parte. E qui però vediamo che l'Italia, quando dico l'Italia ha ragione, lo vediamo in come si comportano gli altri paesi europei. Si è raggiunto un accordo tra mille difficoltà su 160.000 ricollocamenti in due anni, all'inizio 40.000, poi è successo quello che è successo quest'estate, finalmente li hanno portati almeno a 160.000, che è una cifra comunque ridicola, e sapete quanti ne hanno fatti finora? 150. Juncker ha detto sì, nel 2100 forse riusciamo ad arrivare a ricollocarli tutti ai 160.000, no? Di questo passo. Forse altri 112 li ricollocano a dicembre, comunque sono numeri esigui. Quindi l'Italia dice io faccio la mia parte se anche gli altri fanno l'altra. E allora siamo al cane che si morde la coda, perché finché non c'è una vera presa di coscienza generale dei 28 che questo è un problema comune, siamo sempre a punto di partenza. L'unico buon segnale lo manda la Merkel, che ha ricompattato il suo partito, la CDU, oggi in congresso sul tema migranti, è riuscita a evitare che nella politica tedesca si ponesse un tetto ai profughi o comunque a chi arriva in cerca di asilo, e soprattutto ha fatto passare il messaggio che questa è una sfida storica, un test storico per l'Europa, e dobbiamo essere all'altezza, non possiamo celarci dietro muri o altro. Sergio, un'ultimissima cosa, abbiamo proprio 24 secondi, perché leggo che l'Unione Europea dice mancano i candidati da ricollocare in Italia, arrivi concentrati su nazionalità non candidabili a questo ricollocamento, che significa? Sì, no, significa, è un po' tecnico, il problema è che diciamo... ci sono, tra virgolette, quote nazionali, no? Sui ricollocamenti, quindi alcune nazionalità, come per esempio i siriani, che sono in piena guerra civile, sono più candidabili di altri a essere ricollocati. In Germania o in altri paesi. Esatto, perché poi anche altri paesi magari preferiscono determinate nazionalità perché hanno più, diciamo, sono in situazioni umanitarie più difficili. Però è chiaro che se cominciamo a guardare anche questo non si finisce più. Grazie Sergio Nava. Grazie a te. Ciao Sergio. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Intanto, alzando gli occhi, vedo la partita che continua posticipo di Serie A Lazio-Sampdoria. Vedo sempre due tondi, Giovanni Capuano, 0-0. Sì, 0-0. Sta trionfando la paura di perdere, i ritmi sono quelli del primo tempo, insomma bassi. Il secondo tempo è iniziato da circa 7 minuti, c'è stato un cambio nella Lazio che ha inserito Felipe Anderson, fuori Cataldi, che dovrebbe significare un tentativo da parte di Pioli e di rendere un po' più offensiva la sua formazione, però il secondo tempo fin qui è scivolato via senza grandissime emozioni. Nel primo tempo ci sono state le due occasioni che avevamo già descritto, quella di Klose per la Lazio e poi il rimpallo su Barreto che aveva portato la Samp a un passo dal gol del vantaggio. Siamo ancora qui però 0-0 tra Lazio e Samp. Senti Giovanni, invece vedevo che sui sorteggi per gli ottavi di Champions c'è un po' di preoccupazione dalle squadre italiane? Ma guarda, più che preoccupazione c'è panico, nel senso che peggio di così era difficile fare. La Juventus ha pescato il Bayern Monaco, la Roma ha pescato il Real Madrid, e questo per quanto riguarda la Champions, ma anche in Europa League non è andata benissimo, perché il Napoli ha la Spagnola, il Villarreal che per intenderci domenica ha battuto il Real Madrid, la Fiorentina al Tottenham, che è vero che la Fiorentina ha già eliminato l'anno scorso negli ottavi di Europa League, ma è comunque una squadra di tutto rispetto, e la Lazio al Galatasaray che non è nel suo momento storico migliore, ma andare a giocare a Istanbul non è mai semplice. Diciamo che c'è preoccupazione, poi c'è chi ci ha scherzato su, come Massimiliano Allegri, che 10 minuti dopo il sorteggio col Bayern di Monaco ha twittato la citazione da Guerre Stellari, il maestro Yoda: fare o non fare, non c'è provare. Come dire, inutile stare qui a dire che proveremo a buttare fuori il Bayern Monaco, c'è soltanto da rimboccarsi le maniche, e ha detto servirà una hashtag Juve Stellare, che credo che da qui per i prossimi due mesi sarà un po' il tema che gli juventini, tutti, tifosi, giocatori, dirigenti, allenatore, dovranno cercare di tenere bene a mente. Grazie Giovanni, intanto vedo 0-0 per il momento, prosegue 0-0. Così la partita, non c'è altro risultato. Grazie Giovanni Capuano. A dopo. Ciao Giovanni. E a dopo naturalmente negli altri giornali radio, immagino, se non ci sono risultati e gol che avvengono così in modo imprevedibile. A questo punto ancora abbiamo pochi secondi per leggere qualcuno dei vostri tanti messaggi sulla pagina Facebook di Effettonote al 349-238-6666. A parte le dovute dimissioni della Boschi, dice questo ascoltatore o ascoltatrice, ma il fallimento in corso con bancarotta del padre di Renzi non andrà ad aggiustarglielo Matteo? Lì è un'altra vicenda comunque. Poi fra gli altri messaggi, grande Renzi, grandi Boschi, sono due maestri di faccia tosta, a casa tutti e due, un'ex elettrice, dice questa ascoltatrice. Poi per un altro, Stefano, Banca Italia è il vero colpevole del disastro, una lobby politica con tempi di reazione di mesi se non anni, ispettori incompetenti e professori universitari privi di senso pratico e contatto con la realtà. Questo un altro dei messaggi severissimi vostri. Ci sentiamo noi più tardi alle 22. D'accordo, ci proverò. No, provare no. Fare o non fare. Non c'è provare.